Uno degli istinti più forti di un neonato all'entrata di questo mondo è certamente il bisogno di cibo. Benché iniziamo tutti con il desiderare il latte della madre, non tutti in seguito desideriamo o apprezziamo cibarci degli stessi alimenti. Le ragioni sono varie e, secondo me, impossibili da conoscere nella loro totalità. Mio figlio, fin da bambino, succhiava avidamente il limone senza fare tante smorfie, mentre altri non ne sopportano neppure l'odore. I miei nipotini, ai primi sorsi di un poco di vino misto con acqua, trangugiavano immediatamente, mentre altri bambini rigettano una tale bevanda. Occorre anche riconoscere che, a volte, rigettiamo certi cibi solo perché non ci siamo abituati. Ma non è a questo che mi riferisco. Vi sono cibi o bevande che proprio non ci vanno. Evidentemente, il nostro organismo comanda al cervello certi impulsi, dei quali siamo all'oscuro. E, un dato di fatto, non è cattiveria, non è pignoleria, non si tratta di voler essere diversi, S.I.T.R. Antico Testamento T.A. Semplice M.E. Nuovo Testamento E. di Palantico Testamento. Proprio per questa differenza, un genitore deve sforzarsi di comprendere quando un figlio fa il difficile a tavola solo per puro capriccio, oppure se veramente un certo alimento gli è sgradito. A me, per esempio, il sapore del cetriolo è sempre risultato fortemente sgradevole. Arrivato all'età adulta, con grande sforzo riesco anche a sopportarlo. Sapere che fa bene mi aiuta a non fare il difficile quando sono invitato a pranzo, ma rimane comunque uno dei cibi più sgradevoli che conosca. Questione di palato. Anche l'insalata, quando ero nell'età della pubertà, mi era sgradevole, ma con molta volontà e determinazione sono riuscito ad apprezzarla, fino al punto che oggi non ne posso fare a meno. Ma non è stato lo stesso riguardo al cetriolo. Non mi piaceva, non mi piace e dubito che mi piacerà. Questione di palato. Perché racconto questi particolari della vita in merito all'alimentazione? Perché, con il passare del tempo, mi rendo conto di quanto Gesù facesse bene a raccontare episodi della vita, per poi trarne delle conclusioni morali e spirituali. Chi non si ricorda delle sue parabole? Chi non si ricorda dei racconti della vita ordinaria, come la parabola del seminatore, quelle del figlio prodigo, del cieco, che conduce un altro cieco? Chi può dimenticarne le applicazioni spirituali? Così, questa realtà e quotidianità delle differenze che abbiamo nell'alimentazione dovute non a una volontà o a un fattore conscio, ma ad una attitudine e predisposizione che ci è stata data fin dalla nascita, ha in me suscitato una risposta ad un interrogativo spirituale non indifferente. Mentre il dato di fatto rimane indiscutibile, forse è vero che l'applicazione ad una realtà oggettiva può anche essere non precisa. Ma vale la pena tenerne nota. Un peso che porto fin dai primi anni della mia resa a Dio riguarda la mancanza di unità tra i figli di Dio, dovuta a più interpretazioni di ciò che è scritto nella Bibbia. Mi è sempre risultato un fatto impiegabile la possibilità che una medesima frase di Gesù possa essere capita in tante maniere, anche se nel tempo il mio cuore ha trovato una certa serenità. Infatti, non è poi così strano che una frase o uno scritto possano essere capiti in vari modi, perché succede anche al giorno d'oggi che un deputato dica qualcosa la quale venga interpretata dalle varie correnti politiche in maniere diverse. Così, è pure della stesura di certe leggi. Ora, se questo è possibile per situazioni, discorsi e opere contemporanee, cosa dire di un testo come la Bibbia, che è composta di 66 libri, il più giovane dei quali ha 2000 anni? Perciò non è tanto che vi siano varie interpretazioni della volontà di Dio a suscitare in me un forte disagio, quanto il perché la si comprenda diversamente. Nel caso della politica, la spiegazione potrebbe essere data dal fatto che l'opposizione ha tutti i vantaggi a comprendere come crede bene, ma nel caso religioso sarebbe una grave mancanza di carità cristiana partire dal presupposto che gli altri interpretano diversamente perché sono in mala fede. L'amore cristiano, che non sospetta il male, non lo permette. La spiegazione al mio interrogativo deve essere un'altra. Nasce allora in me il sospetto che non siano tanto lo scritto o l'affermazione ad essere ragione di varia interpretazione, ma che questi non facciano altro che mettere in evidenza il palato, o meglio, la predisposizione naturale del nostro cervello. Perché ogni parola e ogni ragionamento sono esaminati e gustati dal nostro cervello. Giobbe disse nel suo dolore, l'orecchio non esamina forse le parole come il palato assapora i cibi? GB 12.11.34.3. Proprio perché tutto viene setacciato dal nostro cervello, se sono propenso a dare ad un brano biblico una certa interpretazione, vuol dire che quella interpretazione è già in qualche modo presente nel mio intimo. Come per i cibi, il palato del mio ragionamento rifiuta per istinto una certa interpretazione, per gustarne invece un'altra. Non è questione di cattiveria, né di malafede, non è che si voglia essere sempre un bastian contrario, ma certe interpretazioni stonano al nostro orecchio, abbiamo verso di esse un naturale rifiuto, e per quanto ci sforziamo spesso il risultato è un maggior rigetto e disgusto. Certi cibi, come certe interpretazioni, possono anche essere sopportate, ma rimangono comunque sempre sgradevoli al palato del nostro ragionamento. Il salmista, lodando le parole di Dio, diceva «Come sono dolci le tue parole al mio palato!» SL 119.103. Quando invece le parole di Dio non sono dolci al palato del nostro cervello, quando ci risultano amare, cosa fare? Cosa dire? Ho avuto più volte occasione di parlare con credenti che hanno frequentato la comunità alla quale appartengo, i quali mi esprimevano il loro disagio per la comunità stessa e l'insegnamento impartitovi. Capivo che erano sinceri, che non avevano nulla contro nessuno, ma si nutrivano male. Capivo che il loro palato spirituale non era soddisfatto, nonostante facessero di tutto per vivere una buona armonia con gli altri membri di chiesa. Anche se non sempre sono stato all'altezza della situazione, a volte, percependo la loro naturale tendenza spirituale, li incoraggiavo a frequentare la comunità che a mio parere era adatta per loro e quando hanno seguito il mio consiglio si sono trovati benissimo. In quella comunità le parole di Dio, interpretate in un certo modo, erano dolci al loro palato. E si sa che, quando uno mangia bene, sta bene. Questa esperienza mi conferma l'esistenza di un errore, che si commette troppo di frequente, e che è ragione di divisioni. Condurre un'anima a Cristo e inserirla nella comunità alla quale apparteniamo è una cosa giusta e doverosa. Come è giusto e doveroso dare ad un neonato il latte della propria madre, ma si trasforma in errore. Se si vuole a tutti i costi che egli abbia un palato spirituale pari al nostro, come ognuno ha il suo palato, come ognuno ha i suoi gusti, così sembra che ogni essere umano alla nascita abbia le proprie inclinazioni spirituali. C è chi è più portato ad aiutare il prossimo in modo filantropico e conseguentemente si cercherà un movimento che metta enfasi su questo aspetto del cristianesimo. C è chi è più portato alla teologia e, quindi, si cercherà una corrente teologica secondo i suoi gusti. C è chi è più portato ad essere trasportato dai sentimenti e, perciò, si cercherà un movimento che porta in quella direzione. Questa è una ragione per cui, nell'ambito del protestantesimo, ci sono vari movimenti religiosi relativamente ai quali non dobbiamo sentirci in colpa. Dovremmo sentirci in colpa se costringessimo un credente a frequentare una chiesa che non soddisfi il palato della sua conoscenza, perché prima o poi se ne andrà o rimarrà una palla al piede per la comunità. E qui sta l'errore, perché sembra una norma che chi lascia una comunità lo faccia nel peggiore dei modi, cioè procurando una divisione. Non essendo capace di comprendere che il disagio era nel palato, si dà la colpa a motivi etici. Di norma chi esce da una comunità lo fa adducendo di ritenersi offeso, perché non si se n'è amato, perché si sente inutile. Mentre la vera ragione è che il palato della sua conoscenza o ciò per cui è più naturalmente portato aveva tutto un altro gusto. Forse amava un'altra teologia, forse aveva bisogno di sentirsi dire quello che già è presente nel suo profondo. Sta di fatto che comunque in quella comunità non si nutriva volentieri. Troppo cibo gli era sgradevole. Queste riflessioni sembrano avallare l'idea di una predestinazione alla formazione della coscienza, come dell'intelletto. la quale, comunque si voglia, ci obblighi a seguire una certa teologia. Non la vedo in questi termini, ma qualcosa di vero c'è. L'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, ha scritto che ad ognuno è stata data una certa misura di fede, R.M. 12:3, e questo vuol dire che non tutti, tanto alla nascita fisica quanto alla nascita spirituale, hanno ricevuto la stessa fede. Non tutti, come invece è accaduto a me, nel periodo della pubertà si trovavano in ginocchio in un prato per chiedere a Dio di conoscerlo. Non a tutti, come invece mi accadde nella mia cameretta, poco dopo essermi reso a Dio e senza aver intrapreso nessuno studio di teologia, è stato rivelato, in embrione, il difficile tema della Trinità. Non a tutti, come a me accade, la parola di Dio viene impressa con violenza nella mente in modo continuativo. Non è certamente una virtù. Non c'è, è ragione di orgoglio. Anzi, è la totale mancanza di orgoglio, perché il Dio delle Scritture si rivela agli umili. È Dio che decide quanta fede dare a ciascuno e non dipende né da chi corre né da chi vuole. Rom 9:16. Così sembra proprio che al momento della nuova nascita, e forse anche prima, si riceva anche una certa comprensione di Dio, la quale nostro malgrado non è uguale per tutti, sebbene nella nostra esistenza spesso non facciamo altro che rincorrere una tale comprensione. Procedendo progressivamente in questa comprensione, il palato della tua coscienza e del tuo intelletto rimane soddisfatto. L'errore sarebbe desiderare che tutti avessero lo stesso palato. Errore che l'Apostolo Paolo ha messo in evidenza quando disse che ora conosciamo in parte, 1 Cor 13.12. Se accettassimo tutti di conoscere in parte ciò che è di Dio e della vita, allora il nostro atteggiamento verso il prossimo sarebbe di piena disponibilità, come sono comprensivo nei riguardi di chi non gradisce le cose dolci. Il guaio delle divisioni e degli steccati fraterni sta proprio in una certa intolleranza, esattamente in piena contrapposizione alla parola di Dio, che ci mette in guardia di non giudicare nessuno. Infatti così cita: chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda il suo proprio Signore. Rom 14.4. Hai notato? Se il fratello cade o rimane in piedi, questo riguarda Dio e non te. Questo significa che non devi avere pesi né problemi più del dovuto. Gal 6.2. Il fratello va amato, servito, sopportato, compreso, ma poi, il risultato finale, lascialo a Dio. Se a me non piacciono i cetrioli, non posso imporre agli altri di astenersene, come se non mi piace una certa interpretazione della Scrittura, non posso pretendere che la mia opinione sia condivisa. Devo rispettare il mio palato e quello degli altri. Solo così sono veramente umano. Aprile 2011. Ellero,